E questa pure l'altro anno, pure 2 anni fa c'era un buon sovraffollamento. Il problema non è quello, non è solo quello perlomeno, e non è il principale. Perché 57 morti, suicidi in carcere, oltre gli altrettanti per cause da accertare? Allora, il problema è molto chiaro, l'abbiamo detto mille volte, siamo disposti a sfidare chiunque dei grandi menti ritenuti tali, che si ritengono loro tali menti studiosi, di studiosi o psichiatri o medici o psicologi o social, che hanno le loro tesi abbastanza, o teorie abbastanza astruse sul perché ci si suicida in carcere. Il motivo è molto semplice: bisogna forse esserci stati, come diceva un grande costituzionalista, Calamandrei, diceva quando visitò le carceri, dice: voi non lo potete capire, bisogna esserci stati, bisogna aver visto coi propri occhi. E, perché appunto, quindi tutti quelli che parlano di carcere e non ci sono stati, potete dire tutto quello che volete, a libertà di parola, per carità, però attenzione a non fare affermazioni così banali, irrisorie, ridicole. Il suicidio in carcere avviene perché in carcere la prima necessità è quella di andare via. Andare via, i motivi sono, si va, quali sono le possibilità di uscire dal carcere al più presto possibile? Chiaramente quello di fare un'evasione, se si riesce, cosa che ormai non riescono più, e vedremo pure tra un po' perché non riescono più le evasioni, oppure perché è fine pena, però quello dipende da quello che c'è scritto in sentenza. Oppure la terza è questa, quella del suicidio. Ma perché appunto una persona talmente non riesce a stare in carcere, talmente odia il carcere che mette in atto tutti i meccanismi per andarsene, per fuggire, però poi non riuscendo, ovviamente per una serie di motivi appunto che vedremo, punta sull'ultimo modo, che è il suicidio. Il suicidio è l'unico modo di uscire dal carcere con le proprie forze, cioè da sola una persona decide: io voglio uscire dal carcere. L'evasione, anche quella, non si fa da soli, anche le evasioni singole non sono fatte da solo, ricordatevi quello, lasciate stare i film e chiacchiere, ma anche quelle raccontate dalla storia delle evasioni, come la fuga del grande evasore, eccetera, eccetera. Se uno evade dal carcere c'ha sicuramente un'area di complicità positiva, oltre che solidarietà, cioè una rete enorme di solidarietà, una rete altrettanto grande di complicità, degli aiuti reali, e quindi riesce a fare l'evasione. È singola o collettiva? La differenza non è se l'evasione è singola o collettiva, ma la preparazione e l'attuazione necessita di un contributo collettivo molto grande. Il singolo in carcere non può fare nulla se non appunto il suicidio. Questo per chiarire anche i discorsi dell'eccessivo individualismo. Dice: se uno dice io sono il contro in carcere, non è contro il carcere. Contro il carcere ci si può essere, ma non da soli, collettivamente, perché la realtà del carcere, da quando è sorto, ormai sono 500 anni, quindi abbiamo diverse pezze d'appoggio per dimostrare le tesi. Ebbene, le persone singole in carcere scoppiano, oppure decidono di uscire con le sole proprie forze, e quello è il suicidio. Tutti gli altri modi per uscire, evasione, oppure che sono rivolte, eccetera, presuppongono una grossa collaborazione all'interno del carcere e con l'interno, con l'esterno. Apposta hanno fatto le mura alte, mettono tutti quei meccanismi assurdi che tra l'altro hanno azzerato tutto quello che si dice, anche in parte le leggi, ma soprattutto la Costituzione, quello che dice del carcere. La Costituzione afferma con nettezza, con chiarezza, che il carcere non può essere una cosa separata, non è una un'isola separata dal carcere, dalla società, non può essere, diciamo, i muri servono casomai per non far fuggire i detenuti, ma non per non far entrare dentro la società. Il carcere, così lo pensava il regime fascista. C'è una cosa molto interessante, se qualcuno avesse voglia di andare a leggere i lavori preparatori della Costituzione. Sulla Costituzione non c'è molto, cioè c'è, ma è la sintesi di un dibattito che è durato, ovviamente, come sapete, tantissimo, che ha coinvolto gran parte della società, non solo i deputati e le deputate dell'Assemblea Costituente, ma gran parte della società, che allora era uscita vittoriosa dal fascismo e dalla liberazione dal nazismo, ed era quindi volta a ridisegnare i criteri generali degli elementi cardine della società, di cui il carcere è un elemento centrale, tanti altri ovviamente, alcuni anche che personalmente non condivido, come il discorso della proprietà privata, il discorso della famiglia, il discorso della religione, però comunque è ovviamente è stata una mediazione tra forze diverse, e quindi chiaramente ci sta, voglio dire, non è che però ponendo sul carcere arrivarono a dire una cosa unitariamente, poi dopo dibattito anche acceso perché non erano tutti concordi, una cosa molto chiara, dissero queste: noi dobbiamo disegnare un nuovo modo di guardare la persona che fa i reati, quindi il carcere che mettiamo. In genere non parlarono di carcere, la pena. Perché dicevano le pene, perché puntare sul carcere? Le pene possono essere tante. Considerate che quelle persone, quasi la metà, erano già state in carcere, nel carcere fascista, che non era un regalino, e quindi sapevano di che parlavano. E quasi tutte quelle persone che erano state in carcere, sia fossero cattoliche, sia fossero comuniste, sia socialiste, sia liberali, avevano una visione ben chiara del carcere. Dicevano: noi dobbiamo porci da un altro punto di vista totalmente opposto a quello che ha il fascismo sul carcere, altrimenti non si capisce che liberazione abbiamo fatto. Perfetto. Allora dice: andiamo prima a analizzare qual è il modo di vista del fascismo sul carcere, e andarono e lo scoprirono in quello che è il regolamento del 1931, successivo di pochi mesi al codice Rocco. Allora, nel regolamento del 1931, regolamento ordinamento penitenziario del 1931, che riprendeva appunto il codice penale Rocco, votato nel 1930, Rocco è il giurista di Mussolini, firmato da Rocco e da Mussolini, il codice penale è tuttora in voga, sia chiaro. Tutti sono antifascisti, però noi in Italia abbiamo un codice penale che porta la firma in calce alla fine di Rocco e Alfredo Rocco, il giurista, e Benito Mussolini. Ora fa pace all'anima loro di quelli che si dichiarano antifascisti, però anzi, qualcuno disse, un ministro della Repubblica Italiana qualche anno fa disse: tutto sommato il codice Rocco è molto garantista, quindi è bene mantenerlo vivo. Però questo ovviamente poi è bene ricordarsene, perché appunto poi è facile andare a fare una manifestazione antifascista con le istituzioni tutti quanti, no? Musica, suono e balli, e però poi non aver capito. Comunque torniamo al discorso, loro andiamo a trovare e trovarono, e affermava delle cose molto precise il regolamento, l'ordinamento penitenziario del 1931. Diceva: chi commette un reato si pone fuori dalla società, non dalla legalità, dalla società. Attenzione, le parole hanno un senso nel sistema giuritico, le parole, ma un po' in tutto il parlare, dobbiamo stare molto attenti alle parole, perché spesso si usano parole un po' a vanvera o quelle che hanno tanti significati per cui lasciano nella confusione. Allora, si pone fuori della società, non solo della legalità, della società, e va emarginato. Quindi si mette in carcere la persona che ha commesso un reato perché sia separato totalmente dalla società, non dovrà avere più, finché rimane detenuto, nessun rapporto con essa, né la società, nessun rapporto col carcere, e dovrà scontare fino all'ultimo giorno di pena. Cioè le pene sono fisse, secche. Quella che ti raggiunge te la fai fino all'ultimo giorno. Questi erano i due criteri centrali che i costituenti scoprirono era la visione fascista del carcere durante il regime fascista. Infatti le mura alte che fecero da allora servivano non solo a non far scappare i prigionieri, ma soprattutto a non far entrare la società dentro. Corrispondenza bloccata, censurata, tutti avevano una censura, possibilità di scrivere solo una lettera a settimana o ogni 15 giorni, a seconda, te lo decideva il direttore, secondo se c'hai un problema e ti morì a un parente ti facevano scrivere una lettera, però per scrivere la lettera ti davano loro un foglio e una matita o una penna, tu scrivevi, poi consegnavi il foglio e sia il foglio che la matita che ti hanno dato, lo consegnavi alla guardia, quello lo portava in direzione, quello leggeva, imbustava e te la mandava a chi di dovere. Questo era il meccanismo. I giornali venivano ovviamente censurati, i libri non tutti, decideva la direzione o comunque il ministero quali libri poteva leggere il detenuto. Questa era la situazione, qua è completamente una società totalmente separata. I costituenti dissero: ma a noi ci va bene questa? No, ovviamente non ci va bene, un po' perché l'avevano anche vissuta questa separazione forzata. Noi dobbiamo vedere, noi pensiamo, ora ragionando anche in termini filosofici o sociologici se volete, il carcere non è altro che una parte di questa società, come l'ospedale, come la caserma, come è il manicomio, allora c'erano ancora, deve essere, è una parte di questa società, cioè ci vanno dentro persone come noi, che fino a ieri erano come noi, stavano al bar, in trattoria, passeggiando per strada come noi, a un certo punto infrangono la legge e vanno là. Quindi noi dobbiamo mantenere un rapporto con queste persone, e quindi il carcere, o comunque la pena, non usarono mai la parola carcere, perché chi l'ha visto il carcere lo odia talmente che non la usa quella parola, quindi usa la pena, che ha un carattere multiplo, cioè multipolare. Le pene sono tantissime, se ne possono storicamente se ne possono utilizzare tantissime, ma anche adesso ci stanno, che so, gli arresti domiciliari è una pena, il lavoro all'esterno è una pena, la semilibertà è una pena, l'affidamento in prova ai servizi sociali è una pena, cioè, sono tutte limitazioni della libertà molto forti, che però non prevedono la permanenza in carcere. Tu sei controllato 24 ore al giorno dalle forze dell'ordine, però non fai in carcere, stai a casa tua, vai al lavoro, torni, eccetera. La frequentazione è controllata. Tra l'altro, da un punto di vista, lo diciamo en passant, ma ne abbiamo parlato di queste cose anni fa, da un punto di vista della funzionalità del sistema di controllo si è dimostrato, ma non è che lo diciamo noi, ci sono studi enormi, centinaia di libri, ormai ci hanno fatto convegni, ci sono corsi universitari su queste cose qui, non in Italia. In Italia il carcere non se ne parla, perché bene ormai sta in mano a quei cialtroni che vanno in televisione tutti i giorni, e quindi è ritenuto dagli esperti che il controllo sociale viene attuato meglio attraverso il controllo penale esterno, così si chiama, cioè tutte quelle misure che permettono alla persona di stare nel proprio ambiente, e però lì dentro viene controllata. Questo che permette al sistema, allo Stato, di vedere e controllare non soltanto i movimenti e ciò che le azioni, le attività che fa la persona controllata, ma anche l'ambiente con cui si lega, chi incontri, con chi vai a mangiare, a prendere il caffè, o chi vai, con chi chiacchiera, con chi trattieni, e quindi è questo, su un piano effettivo del controllo è molto più efficace. Il carcere non è efficace per il controllo, non serve a niente, però poi vedremo perché lo tengono ancora. Allora, sostanzialmente poi lo sapete tutti, è inutile che ci facciamo, c'è alcuni problemi profondi, ma fondamentalmente è per ricevere voti. La nevrosi della popolazione di questo paese, e non solo, però oggi parliamo di questo paese, il malessere che c'ha viene scagliato contro un nemico, il potere ti spiattella sul tavolo, il nemico è il rom, l'immigrato e il ladro, questi sono i nemici, e quindi buttali in carriera, butta la chiave, queste cose qui, e qui prendono i voti. Vabbè, è un momento di nevrosi che probabilmente può passare, cioè passerà nella misura in cui si trova un'alternativa al malessere delle persone. La gente sta male e cerca il nemico che gli viene posto dal sistema dei media sul piatto per dire è colpa sua, però si può trovare benissimo qual è il responsabile del nostro malessere. Va bene, questo, quindi dice, torniamo ai costituenti, di trovarlo questo modo, dice noi no, cioè, dobbiamo porci da un altro punto di vista. Chi fa una violazione di legge viene ovviamente condannato secondo le leggi, che dovremmo rivedere tutte, poi non l'hanno riviste, però pensando di rivedere, pensate che nel 49 era previsto, si inserì nel 46, l'Assemblea Costituente disse nel 49 facciamo il nuovo codice penale. L'hai visto tu? Non l'ha visto nessuno perché non è ancora nato. Hanno fatto alcune piccole modifiche, molto piccole, del codice Rocco, alcune anche peggiorative. Le Gigossiga sono di gran lunga peggiorative di quello del codice Rocco, comunque. Però non è nato il nuovo codice penale. Andiamo avanti. Quindi dissero: no, deve essere un pezzo di società. E quindi bisogna fare il carcere, non è un'emarginazione, non è una ghettizzazione, non è un buttare fuori dalla società, è semplicemente tenere una persona, carcere o altra pena, in cui si fa deve fare questa persona un percorso per capire perché, per capire la persona che ha fatto il reato, e noi società insieme capire perché ha violato quella legge. È inadeguata quella legge o quella persona ragiona in maniera strana? E questo ci può permettere di capire. Quindi puntarono due elementi: obbligo di solidarietà di chi sta dentro e di chi sta fuori a ricomporre l'unità della società. Questa è una cosa molto importante, che ovviamente sono parole che non sono diventate pratica, ma qui i percorsi sono lunghissimi e quindi dissero: il carcere diventa un pezzo di società, per cui dissero pure: bisogna facilitare l'ingresso della società in carcere, l'uscita dei carcerati fuori, bisogna fare in modo che le pene non siano prevalentemente la galera sia solo un elemento parziale per situazioni particolari. In gran parte le pene bisogna fare sociali, cioè la persona che trasgredisce deve stare ancora di più in mezzo alla società, perché vedendo la solidarietà e la condivisione può ritrovare l'accettazione delle norme. Questo è il principio. Quindi in base a questo e fecero queste cose qua. Ora poi scrissero la Costituzione, che era un po' la sintesi, però leggendo la Costituzione, che tra l'altro quasi nessuno ha letto, nonostante se ne parli, ma io da quando sento parlare i politici e gran parte dei giornalisti, non tutti chiaramente, ma i politici pressoché tutti non hanno letto la Costituzione, men che meno hanno letto quello che andrebbe letto insieme alla Costituzione, cioè i lavori preparatori, che è una cosa che si può fare, non è che sono cose difficili, non è che parlo di fisica quantistica che diventa un po' difficile, no, è una cosa semplice, basta leggere, che un dibattito tra esseri umani, tra persone che avevano subito la galera e la repressione e che volevano portare un discorso repressivo dentro la società per il rispetto della legge e della pace sociale, però in maniera un po' diversa. Conclusione: nel 49 non hanno fatto il nuovo codice penale. L'ordinamento penitenziario, quello firmato dal signor Mussolini, è rimasto in vigore nelle carceri italiane fino a luglio 1975, ossia il conto è presto fatto, 30 anni dopo la liberazione, con buona pace sempre di quelli che vanno a festeggiare a modo loro la liberazione o cose di questo tipo. Questo è il quadro di riferimento. Dopodiché diedero l'indicazione al sistema politico, che sarebbe venuto fuori dalle successive elezioni, perché l'Assemblea Costituente viene votata appunto con quel compito di fare la Costituzione, di dare le norme generali, poi subito dopo si fanno le elezioni del sistema del Parlamento, che diventa l'organo legislativo per eccellenza e che all'interno vota il governo, che farà il governo della società e tutto il resto. Non viene fatto nulla, appunto, l'ordinamento penitenziario rimane 30 anni, i prefetti rimangono ancora fino a oggi, i questori sono gli stessi, come funzioni, cioè non è cambiato praticamente niente, non molto, diciamo, qualcosa è cambiato, ma non molto nella struttura, poi nella società sì è cambiato molto, però nella struttura, diciamo, nell'apparato legale non è cambiato granché. Poi molte leggi sono state fatte sotto la pressione popolare, eccetera, eccetera. Comunque, quindi siamo arrivati a questo punto. Riprendiamo l'origine del discorso. Diciamo, siamo partiti dai suicidi in carcere. Perché in certi momenti aumentano i suicidi? Avvengono in tutte le carceri del mondo. Dei periodi che c'è un picco di suicidi e degli altri periodi che invece si attenuano. È un fatto soggettivo, chiaramente, il suicidarsi, ciascuno lo fa perché appunto ha bisogno di uscire immediatamente dal carcere, però attenzione, ragionando sulle dinamiche della situazione carceraria di un paese in un periodo, si nota che i suicidi aumentano quando dei venti di speranza gettati prima in pasto alle persone detenute vengono frustrati, tagliati, abbassati. A quel punto schizza in alto il suicidio, il numero di suicidi. È successo nel 75, il 75 era quell'anno che ho detto finì la vigenza dell'ordinamento penitenziario fascista, e con un travaglio di 3-4 anni, il dibattito cominciò nel 71, si formulò il nuovo ordinamento penitenziario, le nuove regole del carcere, che non dovevano più rispondere alle logiche fasciste, ma è chiaro, erano ormai gli anni 70, dovevano rispondere a tutti altri criteri. All'inizio ci furono dei progetti di legge molto, molto interessanti, a questi parteciparono anche i detenuti, che sanno scrivere, sanno discutere, non è che stanno solo a lamentarsi che gli hanno dato, non è una massa informe di piagnucolosi carcerati. Questa è un'idea sbagliata che hanno molti, mossi anche a pietà. Non hanno bisogno di pietà le persone detenute, hanno bisogno di considerazione, attenzione, perché discutono, perché in carcere si discute di politica forse più che fuori. Questa è la mia esperienza, e siccome dura da 30 anni non è poco, e anche poi risponde a molte altre persone, certo qualche periodo fa di più, forse oggi di meno, ma insomma, però la considerazione, hanno bisogno di considerazione, hanno bisogno di rapporti collettivi e di rapporti sociali, come tutte le persone, chiaramente. Bene. E nel 75 iniziò questo grosso percorso, facciamo la riforma, molti progetti interessanti venivano dalle carceri, anche ben scritti, e i governi cominciarono il Parlamento fece delle commissioni per cominciare a stendere sui vari, anche dei giuristi molto interessanti anche allora, criminologi, che volevano riformare veramente il carcere. Che successe? Erano gli anni 70, c'era pure un po' di trambusto nella società, dopo tanti anni di silenzio opprimente, non solo i carcerati, ma gran parte dei settori della società avevano alzato la voce per dire la propria, per cambiare sostanzialmente le cose, gli operai delle grandi fabbriche, i proletari dei quartieri, e c'erano ancora quelli che facevano il servizio militare obbligatorio, perché allora c'era ancora il servizio militare obbligatorio, proletari in divisa, fu un movimento molto grosso, proletari in divisa, perché erano i ragazzi che facevano la leva, che poi 18 mesi, poi diventò 12, insomma, e che si organizzavano nelle caserme, volevano ributtare indietro quel sistema spaventoso, orribile, e va bene, e quindi tutta quella società si mosse per la trasformazione. Questo spaventò molto il potere, che cominciò a tirare i remi in barca, a dire che non bisogna dare niente a nessuno, perché se ottengono delle cose poi cercano di andare avanti a chiederne altri, no? E quindi con quest'idea, non volendo perdere niente, dissero di fronte a tutti questi che si muovono, operai, proletari, carcerati, studenti nelle scuole, c'era una sollevazione generale di gran parte, non dico tutto il paese, ma in tutti i settori del paese c'era sollevazione, e allora per una trasformazione reale e abbastanza radicale, cominciarono a dire no. Niente per nessuno, repressione dura verso tutti. In carcere stravolsero i progetti iniziali, facendo una riforma che manteneva, se voi leggete originale, la 354 del luglio 1975, la trovate anche in rete e ve la leggete tutta, vedete che il frontespizio, cioè diciamo il prologo, quello che è la premessa, la prima pagina di questa cosa, che dà i principi generali, tutte parole molto belle, perché le riprendono dalla Costituzione, no? Parole, il carcere non deve essere lasciato solo, deve essere risocializzato, il carcere serve soltanto a un passaggio per andare a rientrare, bla bla bla. Però è perché quello è rimasto inalterato, tu dentro tutte le cose sono di nuovo un passo indietro, molto brutto, molto pesante, non si accetta nessuna delle modifiche sostanziali, non è una vera riforma, è già una controriforma in partenza. e quindi riprendono. Considerate che alcuni soltanto un mese e mezzo dopo l'approvazione, che è in luglio, in agosto a Re Bibbia fanno la rivolta per dire no, non è questa la riforma che vogliamo, noi abbiamo chiesto altre cose e c'è la possibilità, e anche i disegni originari prevedevano altre cose. Cominciano le rivolte, poi la repressione, ma non solo in casa, anche ad esempio nei posti di lavoro. Gran parte della classe operaia più attiva aveva ottenuto una serie, materialmente, non legislativamente, dei passaggi. Per esempio, il picchetto era diventato legale, cosa che era ritenuto un obbrobrio prima. Addirittura ti accusavano di sequestro di persona se facevi il picchetto davanti alla porta, perché impedivi ad altri di entrare, al cromiero di entrare. E poi anche il blocco stradale, cioè una serie di cose diventarono reati pesantissimi. Scattò una repressione infame, cioè i governi del 74-75 sono stati i peggiori e hanno azzerato tutto. Tant'è vero che alla riforma del 75, nell'86, 11 anni dopo, subentrò un'altra riforma che viene chiamata riforma della riforma, cioè una riforma, quella che va sotto il nome di riforma Gozzini, che va a cercare di riformare ciò che la riforma del 75 non ha messo in piedi. Questa è la storia d'Italia che non viene raccontata, però questa è. E allora, tornando sempre al suicidio, il suicidio, quando dopo il 75 si è osservato, alcuni osservatori attenti hanno visto l'impennata dei suicidi, perché fino al giorno prima dell'approvazione della legge, quindi quella riforma non riforma, le persone in carcere che ci sarebbe stato un grosso cambiamento che avvicinava l'uscita, ma che l'uscita nel senso anche la possibilità di appunto accedere alle misure alternative, cioè tutto quel meccanismo, lo stesso aspettativa che secondo me si è suscitata lo scorso anno con i cosiddetti decreti poi diventati carta straccia del ministro della giustizia precedente Orlando. Questa aspettativa, questa speranza, quando viene frustrata, cioncata, porta alla depressione. Molte persone, sì, poi alcuni continuano le lotte, però alcuni si deprimono talmente che vedono come possibilità di uscita soltanto il suicidio. Songs, I love you. Without you, I would have all gone. 1 to 6. Bit of trouble in zone number 7. Gonna remember all of my tricks. Ci dispiace sfumare questo bellissimo pezzo dei Genesis, ma cioè, anche perché, come diceva un ascoltatore che ci ha chiamato, ci ricorda un po' begli anni che abbiamo provato così a mettere in discussione il presente. Diciamo appunto, per concludere con i suicidi, due morti in 24 ore, tra l'altro nel carcere, che è un piccolo carcere, Velletri, qui vicino ai Castelli Romani, no? A Velletri c'è un carcere, sono stati due morti in 24 ore. Uno, un ragazzo di 33 anni, quindi un ragazzo appena arrestato, cioè stava in quel carcere da 4-5 giorni, e stava alle celle di isolamento perché non perché avesse fatto qualcosa, perché il direttore, questa è una prassi non prevista da nessuna legge, ma il direttore, quando viene un nuovo in carcere, ti tiene lì in cella di isolamento per nel frattempo cerca di capire dove, in quale sezione collocarti insieme a quali altri detenuti collocarti, però insomma, sulla pelle degli altri fare questi esperimenti poi porta. E poi perfino a Parma, nel carcere di Parma, un disabile è morto, un disabile in carcere, già è un problema perché sta in carcere un disabile, e lì si è aperta un'indagine anche per omicidio colposo, però insomma poi le indagini non ci aiutano granché. Il carcere lo sappiamo, ormai abbiamo una storia appunto 500 anni, quindi non è che non ci venite a raccontare storie. Il carcere si cambia non con le leggi o i regolamenti, ma con la mobilitazione interna ed esterna, e su questo non c'è Cristo che tenga, scusate il richiamo. Allora, veniamo invece al decreto sicurezza. Allora, il 10, cioè 3 giorni fa, domenica, è stato sabato, insomma, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale i 3 decreti che i decreti legislativi che attuano la legge delega del giugno 2017, quella che aveva decretato Orlando proponendo delle riforme, che però sì, questo governo qui l'ha presa e l'ha buttata nel cestino, ma il governo precedente aveva avuto tutto il tempo per rendere effettivo. Considerate che il decreto legislativo, che è un decreto che si appoggia a una legge delega, che traccia un quadro generale di ciò che bisogna decretare, quindi non sono decreti ex novo, ma i decreti legislativi, a differenza del decreto legge, che è un decreto ex novo e che si chiama anche decreto d'urgenza, il decreto legislativo norma situazioni già previste dalla legge delega, che è una legge quadro che dice bisogna fare questo, generalmente, e poi i decreti applicano, esplicitano ciò che è previsto nella legge delega. Non devono avere altra approvazione dal Parlamento, passano in commissione, nella commissione delle Camere, semplicemente per verificare che hanno rispettato l'indicazione della legge delega. Tutto qua, quindi è un fatto quasi burocratico della Tuffi, e quindi avrebbe tutto il tempo. Tant'è vero che questi li hanno preparati il mese scorso, a ottobre, e il 10 novembre sono stati già esecutivi, perché il decreto legislativo appunto non deve passare approvazione, non approvazione, tutto qua. Purtroppo dicono cose diverse da quelle che ci si aspettava, e quindi anche qui si è lanciata una speranza, si fa il contrario, ecco là i 57 suicidi, vabbè. Grazie della... questi non volete chiamarli assassini, questi chiamateli come vi pare, però certo non sono cose belle, soprattutto non è cose belle far sperare alla gente delle possibilità di cambiamento e poi naufragarle per questioni banali di mercanteggiamento di voti. Va bene, allora i 3 decreti sono quelli del cosiddetto sulla sicurezza urbana, quello sulla sanità e quello sulla il potere dei sindaci. Allora, sulla anche qui torniamo indietro di oltre 500 anni, perché è diventato pene più severe, i giornali hanno scritto, no? Per chi esercita l'accattonaggio, cioè l'accattonaggio torna ad essere un reato. Vedere come le leggi nei vari paesi e nelle varie epoche hanno trattato l'accattonaggio la mendicità, chiamatela come volete, uno che si mette lì e chiede la carità, cosa che era gravissima, un atto terroristico, tra un po' è quasi, viene trattata. E se analizzate, se qualcuno, qualche giovane ha piacere di fare delle ricerche e di passare utilmente un paio d'anni, può fare come nei vari paesi il trattamento di questo fatto che è la mendicità o l'accattonaggio ha segnato la storia dei vari paesi. La modernità nasce proprio da questa cosa qui nel paese che poi era l'ultimo e è diventato il primo, che è appunto l'Inghilterra. Enrico VIII, sono delle pagine bellissime di storia raccontate, se ve le volete leggere, è talmente piacevole, anche un po' spassoso per vedere quanto è ridicola la... così il discorso legalità sul tutti credo nel caso o li trovate amici il capitale, il primo libro è Il Capitale di Carlo Marx, ma non è che vi voglio portare dentro la teoria marxista, perché l'ultimo capitolo, il 24esimo del primo libro, è un pezzo di, sono pagine di storia semplicissime, le capisce anche una ragazza o un ragazzo di scuola media, racconta quello che succede, appunto, che è successo per far decollare, perché si è potuto decollare il sistema capitalistico. Lo racconta con un fatto di storia molto semplice, sono fatti storici. Enrico VII in Inghilterra, visto che c'era questo movimento, lo dico in tre parole, ma ovviamente è più interessante leggerlo, se credo ci sia anche in rete, quindi potete, il capitolo 24esimo del Capitale lo potete anche scaricare in rete e leggerlo. Enrico VII appunto fece un decreto per vietare la chiusura delle terre comuni, diffuse appunto in Inghilterra, perché la povertà, non tutti erano proprietari di terre, molti non riuscivano a coltivare qualche cosa e a far pascolare un paio di animali, quindi morivano di fame. Quindi sì, da tempo immemore tutti i paesi avevano le terre comuni, no? Per, appunto, perché la povera gente potesse utilizzarle per campare, perché la terra, si campava sulla terra prima. In Inghilterra questi nobiletti moderni, tra virgolette, dei cialtroni miserabili, la nobiltà inglese è stata tra le più, vabbè, tutte le nobiltà europee sono state miserabili, qualcuna più delle altre, questa più sicuramente più delle altre, cominciarono a rubare la terra ai poveri, cioè circondavano queste terre comuni e ci dicevano questa è terra mia, senza che... Enrico VII fece un decreto per vietare, è vietata la requisizione delle terre, cioè dei terre comuni. Decreto c'era, le forze armate per difendere, perché una legge ci vuole poi la spada, diceva qualcuno, cioè ci vogliono i gendarmi per fare, però i gendarmi privati che avevano i nobili erano più forti dei gendarmi pubblici e allora continuarono a fare queste malversazioni. Che succede? Succede niente, il pubblico ha dovuto abbozzare, tant'è che il successore di Enrico VII, ossia il famoso Enrico VIII, disse vabbè, visto che questi continuano a occupare le terre comuni, diceva facciamo un decreto che è possibile occupare le terre comuni, purché, mettiamogli una clausola, purché non le lasciano incolte, ma in quelle terre comuni ci fanno attività di utilizzando appunto quei lavoratori, quei contadini, quei allevatori che erano stati espropriati, erano nulla tenente ormai, quindi utilizzati come salariati, questa gente disperata per coltivare la terra e per mettere in moto anche sistemi di trasformazione industriale dei beni della terra. Per mettere una clausola, altrimenti diceva, e quindi per selezionare quei nobili che avevano voglia di produrre anche qualche cosa e far lavorare gli altri, continuavano a rubare. Quindi il furto diventa, la rapina diventa legale. E quella è la nascita della borghesia e della modernità. La modernità nasce sulla totale illegalità, la rapina e il furto sono legali, se fatti dalle classi alte. Questo è il concetto. Non è che il furto o la rapina sono legali o illegali, è sbagliato dire questo. Se lo fanno le classi alte è legale, ma questo vale ancora oggi, perché è nata così la borghesia e il sistema capitalistico o la modernità. La legalità di oggi è nata su quei principi, chiaramente allora erano un po' rozzi, poi sono stati affinati, però quel provvedimento lì, quel dire va bene, voi continuate a rubare e a rapinare la terra, però a queste condizioni. Questo fu il decreto di Enrico VIII, che contraddicendo quello di Enrico VII, diceva è vietato rubare la terra, perché ovviamente è la base, è il pane, no? Come se rubi il pane, però io lo potete rubare a queste condizioni. e lì viene fuori questo meccanismo, fa venire fuori dall'ultimo paese dell'Europa, diventa il primo paese con questi meccanismi attraverso un passaggio, ma abbastanza rapido, perché questo mette in moto il discorso dell'accumulazione, si arricchiscono questi qui, diventano forti, eccetera eccetera. Vabbè, questo è un discorso per dire però che la storia dell'accattonaggio racconta la storia di ogni paese, e la potete vedere. In Italia ovviamente il fascismo mise nel codice Rocco il reato di accattonaggio, e venne nel codice penale, c'è questo coso, l'articolo era il 630, fino a 3 mesi di arresto dava, venivano schedati i mendicanti o gli accattoni, i senza casa, insomma, che quelli che giravano senza reddito per le strade, finito il fascismo, come tante altre cose, rimase anche questo. Poi però vennero tante sentenze della Corte Costituzionale, perché alcuni sollevarono l'eccezione, era un fatto chiaramente contrastante con la Costituzione, che dice che la carità pubblica o privata è permessa, cioè si può chiedere la carità, quindi era in contrasto e andava. Però poi ci hanno messo un po' il Parlamento, non è che quello che dice la Corte Costituzionale è immediatamente operativo, questo va capito, perché la Corte Costituzionale non è un organo legislativo, può abrogare dei decreti, ma quell'abrogazione deve essere poi fatta propria. L'organo legislativo in questo, in Italia, ma anche in altri paesi, è uno solo, è il Parlamento. Qualunque cosa detta da altri, se non viene fatta propria dal Parlamento, non ha valore. Quindi anche un'abrogazione deve essere poi recepita dal Parlamento, che abroga con una legge quella norma che la Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale. Quindi già abbastanza presto, nel 59, la Corte Costituzionale aveva stabilito che questa norma, il reato di accattonaggio e di mendicità, era incompatibile con la Carta Costituzionale, col dettato costituzionale, in particolare con l'articolo 38, che appunto dava liceità di assistenza privata in concorso con quella pubblica, quindi un privato ti poteva dare 10 lire, quello che era. Il Parlamento non l'ha recepita subito. Nel 59 che parlamenti avevamo? Andatevelo a trovare, stanno anche su Wikipedia, tanto per capire le persone. Vabbè, a parte questo, ci ha messo un bel po' di tempo, e nel 95 ha abrogato quell'articolo. Quindi dal 95 la mendicità da reato penale diventa contravvenzione, semplice contravvenzione. Ebbene, ma non è finito qui, perché nel 2011 ci fu un altro pacchetto di sicurezza, sapete, da dopo Cossiga i pacchetti di sicurezza, ogni governo che transita a Palazzo Chigi fa un decreto sicurezza. Questi decreti di sicurezza, la loro quintessenza, cioè nelle loro linee generali, sono tutti incostituzionali, però poi cambia virgola qua, riescono a impavocchiarlo. Quello nel 2011 la Corte aveva censurato il pacchetto sicurezza, perché era simile a quello di Salvini-Minniti. Io lo chiamerei così, decreto sicurezza di oggi, e quello che appunto reintroduce la pena di accattonaggio e mendicità, lo chiamerei il pacchetto sicurezza Minniti-Salvini, perché sono in continuità, hanno gli stessi principi, lo stesso modo operativo, gli stessi argomenti. Questo è un po' più radicale, un po' più cialtrone, che però poi dovrà smussarlo, perché alcune cose sono palesemente impraticabili, quindi non è altro che il ribadimento più forte del decreto Minniti. Io non capisco perché tutta questa alzata di scusi, giusta, giustissima, contro il decreto Salvini, non c'è stata contro il decreto Minniti. Questa cosa non la capisco, questa cosa non la capirò mai, perché è un sintomo di degrado culturale, intellettivo di chi nota queste cose. Comunque, nel 2011 aveva dichiarato in gran parte, ma non tanto questo o quell'articolo, proprio il senso, come dire, il motore del pacchetto sicurezza fatto dai governi di allora, anche perché quel pacchetto di sicurezza lì del 2011 ampliava il potere dei sindaci. di emettere ordinanza e regolamento in materia appunto di accattonaggio e prostituzione, ma non all'interno di una legge esistente, al di fuori, cioè come quasi a legiferare. Aveva dato questa possibilità ai sindaci di legiferare con ordinanza nel proprio territorio regolamenti appunto contrastanti all'accattonaggio e alla prostituzione. Questo non si può fare, perché come lo dico è talmente chiaro, lo sanno anche i bambini delle scuole medie, e c'è un solo organo legislativo in questo paese, è il Parlamento, e quindi aveva abrogato anche quella norma. Questa cosa è stata ripresa dal decreto Minniti, facendo una che ha permesso di fare una legge per poter poi dare il potere ai sindaci, rafforzata dal decreto Salvini. Adesso il reato di accattonaggio è legge, questa legge qui è appena pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 10 novembre, quattro giorni fa, e è il 669 bis, esercizio molesto dell'accattonaggio, in cui si dice delle cose talmente generiche che appunto e lì lascia molto spazio proprio per contrastare quella anticostituzionalità di aver dato potere ai sindaci di emettere ordinanze su una materia non regolamentata da norme legislative, e quindi gli dà questa possibilità adesso, perché c'è la norma di legge. Dunque la legge dice questo, il decreto Salvini dice questo: chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie, attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, cioè sollecitare gli altri alla pietà, è diventato un reato. Una volta era un elemento di forza nelle società, vabbè. E quindi questo fa scattare il meccanismo. Per cui i sindaci, che poi in un coma successivo hanno possibilità di emanare ordinanze e regolamenti in materia di accattonaggio e prostituzione, in base a questo decreto possono emettere tutti i regolamenti che vogliono, facendo diventare un disastro i quartieri e abitati. Ora, che l'accattonaggio sia una cosa, ognuno può valutarlo come gli pare, no? Però se è un fatto politico, non è un fatto, perché se uno fa l'accattone non è che ha scelto stamattina vado a fare l'accattone, non è che succede così. Evidentemente il sistema sociale, il sistema assistenziale pubblico, il sistema lavorativo, cioè tutto quello che è la società che abbiamo, non gli permette di vivere decentemente, e quindi va a fare il mendicante. E quindi problemi risolvibili sul piano politico ed economico, non sul piano repressivo, però così funziona. E adesso ai sindaci viene dato anche il potere di dare di mettere sistemi di videosorveglianza comunale. Questo è il secondo. Massicci e consistenti contributi statali permetterà ai sindaci di dotarsi di armi e impulsi elettrici, i famosi taser, e quindi la polizia comunale avrà anche i taser e altri sistemi di videosorveglianza. Tutte queste cose qui le vedremo, quindi ogni sindaco potrà colpire pesantemente. Tutto questo, ci sarà un contributo di 90 milioni di euro erogati dal Viminale alle amministrazioni locali, che si accorderanno con la prefettura, organo del governo, per supportare tecnologicamente i moderni impianti di sicurezza. Questo è chiaro. Il terzo è quello che sappiamo bene, perché se ne è parlato, però anche qui credo un po' superficialmente. Comunque quello che punisce l'occupazione è punita, è diventata anche questo un reato. Però attenzione, hanno dovuto fare anche qui, per non cadere nella infrazione costituzionale, hanno dovuto fare questo piccolo passaggio. Allora, l'invasione di terreni o edifici pubblici o privati è un reato, però soltanto se viene punita appunto fino a 2 anni, e la multa fino a 1032 euro. Chi invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli, eccetera, eccetera. Questo reato però scatta se c'è la querela della persona che ha proprietaria o che gestisce quello spazio, quel terreno o quell'edificio. Quindi ci deve essere la denuncia di parte. Se però l'occupazione, qui l'ha fatta proprio tra l'altro questa è, non so, questa è contro il buon senso, se è fatta da più di 5 persone di una, di cui una armata, oppure più di 10 persone tutte disarmate, diventa un procedimento d'ufficio, cioè il pubblico ministero opera d'ufficio se c'è un'occupazione. Siccome le occupazioni, per esempio a fini abitativi, sono tutte superiori a 10 persone, perché si fanno proprio per permettere di vivere a famiglie, bastano due famiglie che raggiungi 10 persone, quindi essendo più di 10 persone scatta la il procedimento d'ufficio, la procedura d'ufficio. Questi sono, il terzo è quello sulla sanità penitenziaria. Anche qui si dicono un sacco di cose, però le cose che si dicono anche qui, no? Si pensa che il decreto è quello assistenza penitenziaria sanitaria e trattamento legato al trattamento penitenziario. L'assistenza sanitaria ovviamente si ribadisce della ASL di zona, che deve curare pure i detenuti, le persone devono essere rapidamente trasferite in ospedale nell'ASL se hanno problemi gravi, le prestazioni sanitarie devono essere tempestive, appropriate ed efficaci, prevalentemente all'umanità del trattamento, le esigenze profilattiche, cioè la profilassi, cioè la prevenzione, la cura della salute dei detenuti, cioè tutte cose belle che hanno sempre scritto. Però attenzione, qui si parla di carcere. Ora, per esempio, il ricovero d'urgenza viene fatto se non ostacola i problemi di sicurezza, perché per portarti in ospedale ci vuole la scorta, la permanenza in ospedale deve essere, c'è il piantone, la piantone di scorta, cioè forze dell'ordine in grado di stare lì 24 ore, di assicurare turni per garantire il piantonamento della persona detenuta. Quindi è cozza contro i principi di sicurezza molto limitati, che quindi sono belle parole che però o cambi tutto il meccanismo penitenziario oppure non verranno applicate, quindi sono le solite chiacchiere messe lì e andare avanti. Siamo in conclusione perché mancano 3 minuti e lasciamo i microfoni alla trasmissione successiva l'ingorgo. Vi volevo ricordare, come ha ricordato anche la trasmissione precedente, che è uscita Scarceranda. Tutti questi temi sono trattati abbiamo provato a trattarli con attenzione e profondità, poi se ci siamo riusciti o meno lo direte voi. E vi chiediamo di leggerla, perché sapete, cioè, l'agenda è fatta da sempre fatta, tranne qualche caso eccezionale viene fatta l'agenda dove ci stanno disegnetti, cose simpatiche eccetera, però è un'agenda dove ci si scrivono gli appuntamenti, le note eccetera, e poi c'è un libretto chiamato il quaderno numero 13 allegato, nel quale numero 13 ci stanno invece soltanto articoli, riflessioni, lettere dal carcere, ci sta come funziona il sistema carcerario un po' in sintesi, cioè i diritti e i doveri del detenuto, tanto per usare questi termini un po' stupidi, a noi non piacciono comunque, e quindi leggetela, però leggete, ci sta un articolo per esempio sulla pericolosità sociale, molto interessanti, che attengono proprio a questo dibattito. Ci sono articoli su altre cose, c'è un quadro di come funziona il carcere per esempio in Egitto, drammatico, di come funziona in Palestina, cioè in Israele, dove ci mettono i palestinesi, altrettanto drammatico. E poi ci stanno anche come funziona negli Stati Uniti, cioè è chiaro che per esempio in Egitto, situazione uscita fuori da un golpe, e in Palestina, dove i palestinesi vengono incarcerati, in Israele chiaramente è una situazione anche quella di guerra drammatica, di occupazione, sono poco diciamo confrontabili con quella italiana, che invece è confrontabile con quella statunitense. C'è il discorso dello sciopero molto lungo che hanno fatto le persone, i lavoranti nelle carceri americane, statunitense, di cui si sa poco, perché l'impermeabilità, che non era solo del regime fascista, se andiamo a vedere le carceri nei vari paesi che si gloriano di